La montagna che partorisce, da favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Una montagna presso a partorire di tali strida l'aria riempiva che la gente, che udiva da lontano, diceva «Il fantolino una città sarà come Milano e nacque in quella vece un topolino». Pensando a questa favola, così falsa di fuori e vera in fondo, mi raffiguro certi poetonzoli che promettono cantare il finimondo, e Giove il tuono, i fulmini e i titani. E d'una cosa sì straordinaria non ti resta allo stringere delle mani, che cosa? Un poco d'aria. Fine della favola, la montagna che partorisce. Questa registrazione è di dominio pubblico.